Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Attacco alle basi americane in Iraq per la TV di Stato iraniana, ci sono almeno 80 vittime illesi militari italiani. Abbiamo dato uno schiaffo agli Stati Uniti ma non è finita, dice il leader supremo Khamenei, la prima reazione di Trump in un tweet, abbiamo truppe più forti del mondo. Dramma nelle Marche, una bimba di 7 anni muore nell'incendio della sua casa, salve la mamma e la sorellina. Operazione contro il caporalato in Calabria, il procuratore di Palmi accusa la politica, è assente, la magistratura deve fare supplenza. Sci slalom notturno di Coppa del Mondo a Madonna di Campiglio, Vinazzer e gli altri azzurri a caccia del podio. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24. Nei prossimi 15 minuti sentirete le principali notizie, poi a partire dalle 13:15 i nostri approfondimenti. Non possiamo che iniziare dall'attacco alle basi americane in Iraq da parte dell'Iran. Secondo l'esercito iracheno si è trattato di 22 missili lanciati in due diverse basi, quella di Al-Assad e quella di Erbil, dove tra l'altro è presente anche il contingente militare italiano, ma i militari italiani sono illesi. Questa è una delle poche notizie certe che si hanno fino a questo momento. E allora andiamo con gli aggiornamenti con Barbara Schiavulli da Baghdad. Buongiorno. Buongiorno a voi. Sì, queste sono le ultime notizie, ovvero il lancio di 17 razzi contro la base di Ain al-Assad, che si trova nella zona di Al-Anbar, quindi sunnita, invece 5 contro quella di Erbil, che è zona curda. Per quanto riguarda il bilancio delle vittime, le fonti iraniane dicono che ci sarebbero state 80 vittime, mentre invece l'esercito iracheno e gli Stati Uniti sembrerebbero smentire che ci siano vittime. Cosa si sa al momento, Barbara? Esatto, l'esercito iracheno ha confermato che non ci sono vittime tra i soldati iracheni, non facendo riferimento agli altri. Gli americani invece dicono che non ce ne siano stati. E probabilmente se ci fossero stati gli 80 morti che dicono gli iracheni, a questo punto qualcosa sarebbe sicuramente filtrato, visto che sono passate alcune ore. Tra l'altro nella base di Ain al-Assad ci sono circa 1500 soldati tra americani e inglesi, mentre su Erbil nel Kurdistan ci sono invece soldati di altre nazioni, altre coalizioni. Tra l'altro le basi erano già in allerta, quindi è improbabile che fossero esposti, soprattutto la notte, perché è avvenuto in orario 1:45, insomma stavano tutti dormendo e probabilmente erano al sicuro. Grazie Barbara Schiavulli da Baghdad. E invece la prima reazione americana è arrivata in un tweet del presidente Trump, che ostentava sicurezza, va tutto bene, abbiamo le truppe più forti e meglio equipaggiate al mondo, ha detto. Poi sempre nella notte americana i consiglieri del presidente e i generali hanno lavorato freneticamente per accertare i danni subiti alle basi, le due basi colpite in Iraq. Non ci sarebbero vittime, questa è la conferma ufficiale, ma il Pentagono, quando gli Stati Uniti sono in queste ore, in questi minuti, al risveglio, fa sapere di non avere ancora completato tutti gli accertamenti. L'Iran ha dato uno schiaffo agli Stati Uniti con questo attacco, è stata invece la dichiarazione del leader supremo iraniano Ali Khamenei in un messaggio televisivo. Sentiamo. Arriva anche la minaccia del presidente iraniano Hassan Rouhani, parlando dopo l'attacco a due basi che ospitano truppe americane nella regione. Gli Stati Uniti, dice, possono aver tagliato le mani del generale Soleimani, ma l'Iran risponderà tagliando le gambe agli Stati Uniti nella regione. Rincara la dose anche l'ayatollah Ali Khamenei in un discorso TV dopo l'attacco. L'Iran ha dato uno schiaffo agli Stati Uniti, ma non è ancora abbastanza e la loro presenza corrotta in questa regione deve finire, ha dichiarato la guida suprema iraniana. Le prossime risposte saranno proporzionate a quello che faranno gli Stati Uniti, ha detto il ministro della difesa iraniano Amir Hatami parlando con i media Teheran. Trump ha trasformato l'amministrazione americana, ha detto, in un governo terroristico. Così l'accusa di Hatami, confermando che l'obiettivo finale di Teheran resta l'espulsione delle truppe americane dalla regione. Noi non vogliamo l'escalation verso la guerra, ma ci difenderemo contro l'aggressione, scrive su Twitter il ministro degli esteri iraniano Mohammad Javad Zarif, definendo l'attacco una misura proporzionata di autodifesa. Per quanto riguarda il numero delle vittime, Zarif non conferma, ma la tensione resta altissima. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E nella seconda parte di Effetto Giorno cercheremo di spiegarvi quali scenari si aprono adesso, lo faremo con degli interventi, quali scenari si aprono dopo questo botta e risposta tra Stati Uniti ed Iran. Intanto una condanna dell'attacco iraniano arriva dall'Europa e anche dall'Italia. Il ministro degli esteri Di Maio ha detto che è un atto grave che aumenta le criticità in quell'area. I nostri militari stanno bene, nessuno di loro, conferma lo Stato Maggiore della Difesa in una nota, è rimasto ferito nell'attacco missilistico contro la base statunitense di Erbil, né mezzi e infrastrutture hanno subito danni. Il contingente italiano 400 di stanza Erbil era infatti preparato ad eventuali attacchi e si era rifugiato in un'apposita area di sicurezza. Immediata la condanna da parte del nostro ministro degli esteri, un atto grave che accresce la tensione in un contesto già critico e delicato, ha detto Luigi Di Maio, il quale ha espresso vicinanza ai nostri militari. Intanto si lavora sul fronte diplomatico. Dall'Europa la presidente della Commissione von der Leyen chiede di fermare subito le armi in Iraq, Libia per lasciare spazio al dialogo, mentre secondo l'alto rappresentante per la politica estera europea Borrell i recenti sviluppi della situazione in Iran, Iraq e in tutta la regione mettono a rischio gli sforzi della coalizione anti-Daesh. Anche Parigi condanna gli attacchi di questa notte e conferma la sua solidarietà agli alleati e partner della coalizione. E venerdì a Bruxelles è previsto un consiglio dei ministri degli esteri europei a cui potrebbe partecipare anche il capo della diplomazia di Teheran, Zarif. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. E all'aeroporto internazionale di Teheran un Boeing 737 dell'Ukraine Airlines è precipitato al suolo dopo il decollo. Sempre questa mattina a bordo c'erano 177 persone tra equipaggio e passeggeri. Le autorità iraniane, ma anche quelle ucraine, hanno subito escluso un attacco terroristico. A causare il disastro sarebbe dunque stato un problema tecnico. La complessa vicenda internazionale ci porta alle questioni libiche. Il primo ministro al-Sarraj sarà oggi a Bruxelles. La situazione in Libia è molto pericolosa, ha detto alla vigilia dell'incontro l'alto rappresentante per l'Europa, Borrell. Intanto oggi a Istanbul si vedono i presidenti di Turchia e Russia, Erdogan e Putin. L'occasione è la cerimonia inaugurale del gasdotto strategico Turk Stream, che porterà il gas di Mosca attraverso il Mar Nero, ma naturalmente sul tavolo di questo incontro tra Putin ed Erdogan anche la delicata situazione internazionale, a cominciare dalla crisi iraniana e quella libica. Torniamo invece in Italia a questo punto con la cronaca. Una serie di arresti sono stati eseguiti dalle forze dell'ordine in una operazione contro il caporalato coordinata dalla procura di Palmi. Tutto è iniziato quando un bracciante senegalese ha denunciato un ghanese nel luglio del 2018. Dopo un anno e mezzo di indagini coordinate dalla Procura di Palmi, sono state emesse 29 ordinanze di custodia cautelare contro caporali e titolari di aziende agricole. I reati ipotizzati sono di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ma anche sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e detenzione di stupefacenti. In tutto 18 i caporali arrestati, cittadini extracomunitari che all'epoca dei fatti abitavano nella baraccopoli di San Ferdinando e a Rosarno. I migranti sfruttati all'alba venivano caricati su furgoncini e portati in aziende agricole, tre delle quali sono state sequestrate. Lavoravano 7 giorni su 7, pagati 1 euro per ogni cassetta di arance o mandarini che raccoglievano, praticamente 2 o 3 euro per ogni ora di lavoro. Alcune donne nigeriane erano anche costrette a prostituirsi per poi versare il ricavato ad un cittadino liberiano. Francesco Straticò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Reggio Calabria. E a margine di questa operazione anche le dichiarazioni del pubblico ministero di Palmi, che ha accusato la politica nella situazione della piana di Rosarno, ha detto è assente, la magistratura deve fare supplenza per questa carenza di decisioni politiche, e ne parleremo con lo stesso procuratore di Palmi nella seconda parte di Effetto Giorno. Adesso sempre con la cronaca andiamo nelle Marche, dove una bambina di circa 7 anni è morta in un incendio divampato per cause ancora in corso di accertamento mentre era nell'appartamento con la madre e la sorellina. Si era trasferita lo scorso settembre a Servigliano la famiglia originaria del Kosovo, nella cui abitazione si è sviluppato l'incendio, costato la vita ad una bimba di 7 anni ancora da compiere. Nella casa la vittima viveva con la sorellina più piccola, nata nel 2015, il padre quarantenne operaio di una ditta edile e la mamma casalinga poco più giovane. Al momento del rogo la donna si è svegliata sentendo un odore acre ed è aver riuscito a portare fuori solo la più piccola delle sue bambine, nate entrambe in Italia tra Marche e Abruzzo, senza riuscire però a rientrare per salvare anche l'altra. Ad originare le fiamme, probabilmente un cortocircuito. Anna Rita D'Ambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Oggi alle 14, dunque tra poco meno di un'ora, si riunisce la giunta per le elezioni e l'immunità del Senato. All'ordine del giorno la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro Matteo Salvini per il caso Gregoretti. Sulla carta i numeri nella giunta delle immunità del Senato sono contrari al leader leghista. Sarebbero infatti 13 i favorevoli, 5 Stelle, PD, Italia Viva e probabilmente 3 senatori del misto a mandare a processo Matteo Salvini, contrari 10 rappresentanti del centrodestra. La partita però potrebbe giocarsi sui tempi parlamentari. Il verdetto della giunta è infatti previsto per il 20 gennaio, a meno di una settimana dal voto in Emilia-Romagna. Nei corridoi parlamentari corre voce allora di un possibile rinvio del voto a dopo le regionali del 26 gennaio. Il rischio, secondo alcuni, è che la condanna della giunta possa creare un effetto martire attorno a Salvini, con un boom di consensi che sposterebbe gli equilibri in Emilia-Romagna e in Calabria. Troppo rischioso, insomma, da qui il probabile rinvio del voto in giunta ai primi di febbraio, e poi da lì scatteranno i 60 giorni entro i quali l'Aula del Senato dovrà decidere sull'autorizzazione a procedere chiesta dal Tribunale dei Ministri di Catania per l'ex ministro dell'Interno. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Proseguono le audizioni alla Camera sul caso Alitalia e è andato in scena questa mattina un botta e risposta tra le Ferrovie e Atlantia sulle ragioni del fallimento della cordata che avrebbe dovuto, ma non è riuscito a farlo, rilanciare la compagnia. È una doppia verità quella raccontata stamattina alla Camera da FS e Atlantia sul perché non è stato possibile presentare un'offerta su Alitalia insieme a Delta nel novembre scorso. Secondo la D di Ferrovie Gianfranco Battisti, Lufthansa non ha mai fatto proposte formali, mentre il piano di Delta era serio e credibile. Delta ha confermato la disponibilità a investire in equity con 100 milioni di euro nella nuova Alitalia, ma soprattutto ad apportare competenze dal punto di vista industriale, e c'era soprattutto la previsione di crescita entro il 2023 del 30% dei voli verso il Nord America. Secondo Battisti, inoltre, era evidente che Atlantia, gruppo Benetton, fosse condizionata da altre vicende, cioè le incertezze sulla concessione di autostrade. Ma Atlantia, in una memoria alla Camera, respinge le accuse. Non ci siamo sfilati, spiegano. Era il piano di Delta a non essere sostenibile. Non volevano coinvolgimenti diretti e non avrebbero garantito il rilancio di Alitalia. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Per lo sport, lo sci, grande attesa Madonna di Campiglio per lo slalom speciale notturno di Coppa del Mondo in programma questa sera. Diversi azzurri sono attesi da protagonisti. La chiamano la notte dello slalom e attirerà anche quest'anno almeno 20.000 spettatori sulle pendici della leggendaria pista 3-3 di Madonna di Campiglio. Di fatto è un rito dello sport invernale globale che si ripete ogni anno, arrivato alla 66esima edizione, prima gara italiana a essere stata inserita nel calendario di Coppa del Mondo. Madonna di Campiglio si mette il vestito di gala per ospitare gli assi dei pali stretti, qui dove hanno brillato le stelle di Stenmark, Tomba e Hirscher, che qualche stagione fa rischiò anche di essere colpito da un drone TV. Ultima vittoria azzurra nel 2005 con Giorgio Rocca, stavolta tra i francesi Noël Pinturo e il norvegese Christoffersen. Puntiamo sugli eterni Gross e Mølg e soprattutto sul ventenne bolzanino Alex Vinazzer, talento fresco del terzo posto di Zagabria, primo podio in carriera. Ci saranno delle aspettative alte, però io cerco di non mettermi pressione, di sciare in un modo che riesco a esprimermi al meglio. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:13 minuti, effetto giorno, fa una pausa. Torniamo tra poco con le altre notizie. Torneremo a parlare degli scenari che si aprono tra Iran, Iraq, Stati Uniti e poi l'operazione contro il caporalato in Calabria, l'allarme del procuratore di Palmi sulla politica assente in quella terra e sulla questione dei braccianti. E poi servono e a quanto servono i divieti contro il traffico per limitare le polveri sottili che in questi giorni riempono purtroppo l'aria delle città, soprattutto di quelle del nord, ma non solo. Cercheremo di rispondere a questa domanda tra poco. 349 238 6666 per i vostri messaggi. Effetto giorno. Attacco alle basi americane in Iraq. Per la TV di Stato iraniana ci sono almeno 80 vittime, ma il Pentagono smentisce. Abbiamo dato uno schiaffo agli Stati Uniti, ma non è finita, dice il leader supremo Khamenei. La prima reazione di Trump in un tweet: abbiamo le truppe più forti del mondo. Operazione contro il caporalato in Calabria. Il PM di Palmi accusa la politica, è assente, la magistratura deve fare supplenza. Tra poco a effetto giorno l'intervista. Dramma nelle Marche, una bimba di 7 anni muore nell'incendio della sua casa, salve la mamma e la sorellina. All'Italia, Atlantia cambia idea, dice non ci siamo sfilati, siamo ancora interessati al rilancio della compagnia. Sci slalom notturno della Coppa del Mondo, Madonna di Campiglio, Vinazzer e gli altri azzurri a caccia del podio. Felice 17 minuti, di nuovo buongiorno ad Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati. Come anticipato anche dai titoli, torniamo a parlare degli scenari che si aprono tra Iran, Stati Uniti e Iraq dopo questo attacco notturno alle basi militari americane in suolo iracheno. Lo facciamo con Eugenio da Crema, ricercatore dell'ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Buongiorno. Buongiorno. Allora, immaginiamo che gli Stati Uniti avessero preventivato una possibile reazione all'uccisione con un blitz del generale iraniano Soleimani in Iraq. E era questo tipo di reazione da parte dell'Iran che gli Stati Uniti si aspettavano, secondo lei? Come possiamo misurare questa reazione? Ma sono abbastanza sicuro che ci fosse una gamma di scenari che gli americani avevano preventivato. Io direi che quello che poi si è realizzato, se dovesse effettivamente, come sembra, chiudersi qui, diciamo che è lo scenario abbastanza roseo rispetto agli altri possibili. Ecco, ma cosa potrebbe, diciamo, lei dice la possibilità che possa chiudersi così, ma invece cosa è possibile immaginarsi? Per esempio l'Iraq di fatto diventa un terreno di guerra, di conflitto, è diventato tra l'Iran e gli Stati Uniti. Questo potrebbe anche riacutizzare i conflitti tra l'Iran e l'Iraq stesso? Sono due piani, secondo me. Il primo è la possibilità di un conflitto diretto tra Iran e Stati Uniti, che sia la Casa Bianca sia la leadership iraniana assolutamente non vogliono. In questo quadro l'attacco a Soleimani, l'operazione su Soleimani è stata anzi intesa, a mio parere, non solo mio, come un modo per ristabilire un principio di deterrenza da parte degli Stati Uniti. Dopo gli Stati Uniti, dopo molti un'escalation di provocazioni da parte dell'Iran, quella più grave è quella di settembre scorso con l'attacco in territorio saudita, le basi petrolifere, certo. Esatto, anche in quel caso appunto gli Stati Uniti non reagirono. Quando si è cominciato ad avere una forte pressione proprio sugli americani stessi, non più soltanto sui loro alleati più vicini, credo che la Casa Bianca, a ragione o a torto, poi appunto si vedrà nelle prossimi mesi, si è capito che era necessario ristabilire un principio di deterrenza forte rispetto appunto alla controparte iraniana. Questo assolutamente quindi non significa però che anzi al contrario, non significa che gli Stati Uniti cercassero il conflitto, cercavano anzi di ristabilire appunto una deterrenza per evitare che un'escalation successiva ancora peggiore rispetto Ma per quanto riguarda invece americana. Iran e Iraq, secondo lei? Invece la grande incognita rispetto all'Iraq, non soltanto rispetto all'Iran e Iraq, rispetto anche Iraq e Stati Uniti, diciamo che adesso la grande domanda riguarda le forze statunitensi in Iraq. C'è stata questa diciamo così risoluzione da parte del Parlamento iracheno che è stata sbandierata spesso magari in maniera un po' semplicistica, come appunto il Parlamento iracheno che chiede al governo di dire sostanzialmente agli americani di andarsene. Però è anche vero, e credo che lo vedremo a man mano che la tensione si raffredda un attimo nei prossimi giorni, vedremo quello che è già emerso nella dinamica di questa risoluzione, ovvero che ci sono parti della società irachena, in particolar modo i curdi, e in particolar modo anche la minoranza sunnita, che sono, non sono proprio a loro agio col fatto che gli americani se ne vadano completamente, proprio perché temono una presa, un'influenza talmente dominante da parte di Iran nel paese che già in passato si è rivelata abbastanza controproducente per i loro interessi. Grazie per ora Eugenio da Crema, ricercatore ISPI, grazie. Sentiamo sempre su questo tema l'intervento questa mattina a Radio 24, 24 Mattino, dell'ammiraglio Giampaolo Di Paola, che è stato ministro degli esteri del governo Monti. Sentiamo come ha commentato la risposta iraniana all'uccisione di Soleimani, cioè questo attacco alle basi militari americane in Iraq. Premesso che nessun atto di violenza è benvenuto, mi sembra una risposta, se vogliamo, misurata, che poi ce ne possono essere altre, io non lo so, e questo non lo sa nessuno, e fare previsioni adesso veramente mi sembra futile, però è una risposta, diciamo, aspettata, ma anche in un certo senso misurata, che questo poi sia l'unica risposta, che ci saranno altri atti, bisogna aspettare, in queste cose bisogna avere un momento di calma, non si può pensare con tutto il rispetto con un'analisi così affrettata a minuti o a ore dai fatti di sapere come andranno le cose. Minuti, adesso parliamo della vasta operazione dei carabinieri di Reggio Calabria, coordinata dalla procura di Palmi, che ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare a carico di numerose persone, ritenute tutte responsabili in vario modo di intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, sfruttamento e sfavoreggiamento della prostituzione. Per spiegarla in parole povere, caporalato, in particolare per quanto riguarda il lavoro nei campi, poi sfruttamento della prostituzione. Una conferenza stampa questa mattina del procuratore di Palmi Ottavio Sferlazza, che è qui con noi, lo ringrazio, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie a voi. Nella quale Sferlazza ha anche avuto parole pesanti per quanto riguarda l'assenza, un vuoto politico in quel territorio, in quelle zone d'Italia, e anche per questo tema, immagino, dei braccianti clandestini senza nome, senza volto, senza identità, le cui condizioni sono molto legate appunto al fatto di essere clandestini, quindi al di fuori della legge, ma non sono presenti, però che si possono ignorare. Lei ha detto tocca alla magistratura poi fare supplenza. Iniziamo però, Sferlazza, dalla cronaca, insomma, quando si parla di caporalato, di sfruttamento del lavoro nei campi, per esempio, queste persone, dalle vostre indagini, quante ore, in che condizioni erano costretti a lavorare? Ma guardi, la durata dell'orario di lavoro era non inferiore alle 10 ore giornaliere, peraltro non c'erano previsti riposi. Si lavorava anche nei giorni festivi, le domeniche, senza una retribuzione aggiuntiva. E le condizioni di lavoro erano anche estremamente difficili per quanto riguarda le eventuali misure di prevenzione di eventuali infortuni. Basti pensare che noi il 6 novembre del 2019 abbiamo registrato la morte di un povero cittadino, Osmane Keita, che è stato trovato morto in mezzo ai campi, e dai primi accertamenti medico-legali è risultato affetto da una grave forma di tubercolosi e sicuramente è morto per il freddo e per le condizioni di estremo rigore in cui era costretto a lavorare, senza per esempio una scala adeguata che consenta a questi operai di appoggiarsi agli alberi per raggiungere i frutti che devono raccogliere. Quindi una situazione di estremo degrado e di estremo sfruttamento. Senta, tra gli indagati ci sono anche degli imprenditori agricoli di Gioia Tauro, se abbiamo capito bene, che pagavano la manovalanza 2-3 euro l'ora per un orario, appunto lei ci diceva, di 10 ore al giorno, quindi 20-30 euro a volte al giorno per stare appunto tutta la giornata sotto il sole. La denuncia, una delle denunce che sono partite proprio da uno di questi lavoratori, uno di questi braccianti, che ha avuto evidentemente più coraggio forse degli altri, ci racconta come è partita l'indagine. Ma guardi, l'indagine è partita proprio grazie al coraggio, nonostante il clima di intimidazione diffuso e di omertà che aleggia in questi territori, perché è gente disperata che è disposta a tutto e quindi a non denunciare per non perdere questa opportunità di lavoro. Le indagini, noi dobbiamo l'inizio, l'avvio di questa indagine al coraggio di due immigrati sfruttati, un senegalese e un nigeriano. Il primo, che ha avuto il coraggio di presentarsi alla stazione dei carabinieri di San Ferdinando dichiarando di essere stato picchiato e ferito con un tridente agricolo sol perché aveva reclamato la corresponsione del salario che gli era dovuto per alcune giornate lavorative, salario che avrebbe dovuto essergli corrisposto dal caporale, perché funzionava così il sistema, non c'era un'interlocuzione diretta tra i lavoratori e i datori di lavoro, ma il rapporto era col caporale. E sebbene questi avesse ricevuto il denaro dal datore di lavoro, non aveva corrisposto i 25 euro di cui il lavoratore era creditore, oltre a pretendere 5 ore per accompagnarlo, 5 euro per accompagnarlo sul luogo di lavoro. La seconda denuncia è quella presentata da un nigeriano che vantava un credito di circa 297 euro e che il caporale non aveva voluto corrispondergli. E il fatto grave è che questo povero sfruttato aveva appreso da alcuni conoscenti che circa 9 persone si aggiravano nei pressi della sua baracca con atteggiamento intimidatorio, e recatosi sul posto per vedere cosa stesse accadendo fu inseguito da questi uomini che avevano tentato di picchiarlo, fortunatamente senza raggiungerlo. Quindi grazie alla denuncia di questi due lavoratori, ai quali dobbiamo veramente dobbiamo dire un grazie, ma io spero che abbiamo il dovere di rispondere alla fiducia che questi due lavoratori hanno riposto nelle istituzioni preposte, certo, alla prevenzione, lei però, alla repressione del reato, sì, con politiche di accoglienza e di integrazione. Ecco, questo punto mi sembra che lei l'abbia toccato anche questa mattina in conferenza stampa al procuratore Ottavio Sferlazza, e ha detto che insomma la magistratura naturalmente raccoglie le denunce e coordina operazioni come queste che smantellano un'organizzazione di criminale fondamentalmente, però lei ha detto c'è un vuoto della politica, la magistratura deve fare supplenza. Perché ha detto questo? Ma guardi, io nel corso della conferenza stampa, con la franchezza che mi contraddistingue, ho voluto esprimere da uomo prima ancora che da cittadino, prima ancora che da magistrato, i sentimenti contrastanti che albergano nel mio animo. Da un lato il compiacimento per un'indagine che sicuramente ha consentito di assicurare alla giustizia gli autori di gravi fatti di sfruttamento in danno di immigrati privi di tutela, direi ai quali sono stati negati proprio diritti fondamentali, primo fra tutti il diritto di avere diritti ed in particolare proprio il diritto di essere libero dal bisogno, un diritto che purtroppo è negato a milioni di uomini in tutte le istituzioni. Dall'altra ho espresso l'amarezza di dover prendere atto che la magistratura continua a svolgere, come lei ricordava bene, un ruolo supplente secondo una logica dell'intervento emergenziale di patologia, mentre la politica, a cui a mio avviso compete il dovere di dare risposte a chi è privo di diritti, è assolutamente capace di assicurare agli immigrati una vita dignitosa attraverso una reale accoglienza e una reale integrazione, così contribuendo, io credo, a perpetuare una situazione di degrado e di emarginazione che poi costituisce la precondizione che favorisce questi fenomeni di sfruttamento, perché è proprio la disperazione di questa povera gente, e nella disperazione di questa povera gente che trova alimento e terreno fertile nello sfruttamento di questa gente priva di scrupoli. Ecco perché mi sono permesso di muovere questo rilievo critico all'assenza di una reale politica di integrazione e di accoglienza. Io la ringrazio, Ottavio Sferlazza, procuratore di Palmi, grazie per essere stato con noi. 13:29 minuti, facciamo una piccola pausa per commentare quello che avete sentito, le notizie di giornata. Vi ricordo 349-238-6666, c'è anche la pagina Facebook di Effetto Giorno, ci risentiamo tra un attimo. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presento. Questa è la segreteria di Paolo. Al momento non è raggiungibile. Si sta rilassando con i sedili Advanced Comfort di SUV Citroën C5 Aircross. Ti preghiamo di non lasciare nessun messaggio. Grazie. Disconnettiti più spesso. SUV Citroen C5 Aircross. A gennaio tuo da 19.950 euro. Info su citroen.it. Citroen. Figliolo. Ma padre! È iniziato l'anno nuovo? Hai pensato al prossimo tuo? Sì, sì, per ben due volte. In poltrone sofà, doppi saldi, doppi risparmi. Sconto 50% più fino all'ulteriore 40 su tutta la collezione. E puoi pagare in 48 mesi senza interessi. E fino a domenica 12 gennaio, 2.500 divani in pronta consegna a soli 99 euro. Poltrone sofà, autentica qualità. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori disponibili presso i negozi, salvo approvazione delle finanziarie. Dal 17 al 22 gennaio, appuntamento con Vicenza Oro, vetrina delle eccellenze italiane e internazionali del comparto orafo e gioielliero, organizzata da Italian Exhibition Group, e con VO Vintage, in mostra per la prima volta il vintage di altissima gamma di orologi e gioielli, con la possibilità per collezionisti e appassionati di vendere o acquistare pezzi unici e rari. Radio 24 sarà presente a Vicenza Oro con dirette e appuntamenti speciali. Tutte le info su radio24.it. Effetto giorno. Attacco alle basi americane in Iraq. Per la TV di Stato iraniana ci sono almeno 80 vittime, ma il Pentagono smentisce. Operazione contro il caporalato in Calabria. Il PM di Palmi accusa la politica, è assente, la magistratura deve fare supplenza. Lo smog soffoca il nord Italia, da Torino a Firenze stop al traffico, in Lombardia blocchi revocati per lo sciopero ferroviario. Ma quanto servono questi divieti? Ne parliamo tra poco con un ricercatore del CNR. Sci slalom notturno di Coppa del Mondo a Madonna di Campiglio, Vinazzer e gli altri azzurri a caccia del podio. Eccoci qua, 13:35 minuti, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati. Vediamo i vostri messaggi al 349-238-6666, anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno, dove tra l'altro siamo in diretta streaming. C'è un ascoltatore che scrive: i poveri sfruttati sono immigrati, a proposito dell'operazione sul caporalato a Palmi, I poveri sfruttati sono immigrati, giustamente lo dite. I caporali invece, l'organizzazione criminale composta da italiani, il modo in cui fate informazione lascia intendere così, dice questo ascoltatore. No, io credo che non aver lasciato intendere nulla, semplicemente c'erano immigrati che lavoravano, quasi tutti stranieri, forse c'era stato anche qualche italiano, alcuni di questi caporali pure erano immigrati. Se vogliamo metterla sul piano delle nazionalità, allora bisogna anche dire che le aziende in cui lavoravano queste persone erano di italiani. Non credo sia una questione di bandiera o di colore della pelle, ma è una questione naturalmente di legalità, di giustizia e forse anche di umanità. Un altro ascoltatore dice: dove erano gli ispettori del lavoro? Tre punti di domanda, giusto anche questa considerazione. Poi ancora diversi messaggi sempre su questa questione. C'è un ascoltatore, che Tullio da Trento, che dice: bisogna distinguere tra irregolari e clandestini. Clandestini è chi non è mai stato identificato per propria volontà, invece irregolare è chi prima aveva un permesso di soggiorno e soprattutto per colpe non sue non ha potuto rinnovarlo. Giusto di, come dire, ricordare anche questa distinzione. È il momento del punto del vice direttore del Sole 24 Ore. Il punto di Alberto Orioli. I missili e l'escalation della tensione tra USA e Iran non devono oscurare ciò che sta accadendo alle porte di casa nostra, vale a dire in Libia. Oggi è il giorno della piccola Yalta, con cui Putin ed Erdogan ragioneranno su come spartirsi le zone di influenza proprio nel vicino Oriente. L'Europa non va oltre vertici di pura forma senza riuscire a creare il vero interlocutore unico che darebbe l'idea di una svolta dell'Unione sulla guerra civile libica. Finora ha prevalso la logica delle piccole patrie e degli interessi economici più brutali, a cominciare dalla Francia. L'attivismo last minute della Farnesina non sembra in grado di coagulare un tavolo di interessi alternativi a quello russo-turco. Putin e Erdogan hanno già sperimentato il modello spartitorio in Siria e tentano quindi il bis con la Libia. Sarebbe la soluzione più rischiosa per noi, vera frontiera europea nel Mediterraneo. Perderemmo la centralità strategica, rischieremmo il rialzo incontrollato dei prezzi petroliferi e la ripresa del flusso di immigrazione. C'è poi un altro pericolo, che l'enclave dell'ISIS a Sirte possa consolidare le sue posizioni e trovare nuove ragioni per radicalizzare la sua manovalanza. Purtroppo l'Italia ha sottovalutato tutto questo e chiude la stalla quando i buoi sono scappati. Ah, Adesso è con noi Nicola Pirrone, dirigente di ricerca dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico al CNR. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, Pirrone, non piove da diversi giorni, sembra che non abbia neanche intenzione di farlo nei prossimi giorni e in tante città italiane, soprattutto al centro-nord, ma non solo, le polveri sottili contenute nell'aria sono salite sopra i livelli di guardia. Parliamo di smog, di inquinamento, anche in forme molto, molto gravi, che riguardano Milano, Padova, Rovigo, Treviso, Vicenza, ma anche per esempio Salerno, per andare al sud. Quanto sono elevati in questi giorni i livelli di smog che si riescono a monitorare, a registrare? Quanto sono gravi per la nostra salute? Beh, dai dati che stiamo ricevendo sugli organi di informazione ci sono situazioni in cui anche di 4-5 volte i limiti previsti per legge, quindi abbastanza 4-5 volte, quindi abbastanza serio. Quindi di quale tipo di anche di 150-200 microgrammi al metro cubo in certe aree del paese, per cui sono situazioni particolarmente critiche. Diciamo ecco, di che tipo di agenti inquinanti, Pirrone, parliamo? Stiamo parlando di PM10 sostanzialmente, che sono le polveri sottili. Quindi questi sono nella forma più facilmente inalabile per tutte le persone e quindi hanno un impatto diretto sulla salute, soprattutto su quei gruppi di popolazione che sono affette da patologie respiratorie, ma comunque anche per le altre persone non fanno assolutamente bene. Ecco, ma le cause di queste polveri, cioè, sarebbe possibile, come dire, risalire all'origine di ciascuna di queste particelle che galleggiano nell'aria? Ma sì, che lo sappiamo perfettamente, il traffico veicolare, soprattutto emissioni da diesel nelle aree urbane è il principale imputato, poi a questo si aggiungono altre fonti di emissione come i riscaldamenti domestici che per la maggior parte fanno affidamento su combustibili fossili, non so, in molte aree del paese si usa parecchio biomassa, quindi in varie forme come legna, pellet, per uso residenziale, questo in alcune parti del paese rappresentano anche oltre il 30% della PM10 che viene monitorata alle varie centraline. Quindi queste sono le due cause principali. A queste poi ci si aggiungono altre cause, dipende un po' dall'area del paese, però ora come ora il fattore principale sono le condizioni meteo, l'alta pressione, la scarsezza di miscelamento dell'atmosfera. E queste polveri che si accumulano, esatto, accumulano e non si smaltiscono. Senta, ma a cosa servono dal suo punto di vista, cioè di chi fa delle misurazioni scientifiche, tecniche, fredde, guardando proprio ai numeri e ai risultati che si ottengono con i blocchi del traffico? Si hanno dei risultati, diciamo, apprezzabili, utili? Ma diciamo che il blocco del traffico è più una misura di tipo amministrativo, perché come ho già avuto modo di spiegare in altre occasioni, per norma europea non si possono sforare più di 35 volte l'anno i limiti previsti per legge per il PM10. Come dire, è un automatismo che lei dice, un automatismo dell'amministrazione. Diciamo di fronte gli amministratori, cittadini, sindaci non hanno quasi alternative. Fanno quello che possono, poco, e cioè bloccano il traffico. Però diciamo, i miracoli non li sa fare nessuno. Ci vorrebbe naturalmente misure strutturali più di lungo periodo, ne abbiamo parlato tante volte. Senta, senza entrare adesso in questo dettaglio, c'è però un'analisi proprio del CNR che è uscita ieri, che dice che con dicembre sono stati otto i mesi del 2019 che rientrano nella top 10 delle rispettive classifiche mensili di caldo. C'è un collegamento tra il livello, diciamo, di caldo e anche i livelli di inquinamento? Beh, sicuramente, se noi abbiamo condizioni meteo prevalenti di lunga durata, sicuramente queste sono riconducibili al cambiamento del clima, di cui si dibatte molto in ambito nazionale e internazionale, quindi questo necessariamente va a coinvolgere tutta una serie di fattori, tra cui anche la persistenza di determinate condizioni meteoclimatiche su larga scala, come attualmente su tutta la penisola italiana. E quindi, come dire, il cambiamento climatico non incide direttamente sulla qualità dell'aria delle città, però indirettamente in qualche modo influisce sulla stasi di gradienti di alta pressione che che impediscono il miscelamento e quindi la diluizione, certo, delle emissioni stesse. Senta Pirrone, un'ultimissima cosa al volo a un ascoltatore che dice che il suo intervento è fuorviante, perché sostiene questo ascoltatore il traffico veicolare incide sull'inquinamento da polveri sottili per il 30%, il grosso lo fanno i riscaldamenti domestici. Le percentuali, si hanno delle percentuali da questo punto di vista? Ma diciamo che a macchia di leopardo, l'ascoltatore dovrebbe sapere che in base alla dove siamo nel paese, per esempio sono aree in cui la biomassa supera anche il 50% del contributo, dipende da dove siamo, quindi è una situazione a macchia di leopardo. Sicuramente ci sono zone anche intorno alla pianura padana dove è stato accertato dalle misure fatte dalle varie agenzie regionali dell'ambiente e poi l'analisi dei dati che spesso infatti supera oltre il 30% su base annua. Quindi al di là dell'episodio giornaliero, poi i dati vanno analizzati su un arco temporale annuale o stagionale. Va bene, grazie Nicola Pirrone del CNR, grazie per essere stato con noi. E ci vorrà insomma una pioggia sicuramente per ottenere quello che i blocchi del traffico da soli forse non riescono a ottenere. 13:44 minuti, è il momento dello sport, le anticipazioni del programma Tutti Convocati con Carlo Genta. Ciao Carlo. Ciao Alessio, buongiorno a tutti. Allora, caro Carlo, dunque, so che voi siete sempre molto calcistici, però c'è dell'azzurro in cima alle montagne di Campiglio che stasera, ma anche spettacolare forse, no, da vedere. Beh, certamente sì, e certamente stanno producendo dei grandi risultati quello dello sci italiano. E daremo un'occhiata a loro, così come daremo un'occhiata, l'hai detto tu, ai campi di calcio, giocando un doppio derby oggi, Milan-Inter con Beccalossi e Lodetti e poi un Lazio-Roma con Plastino e Roncone, perché ci sono un sacco di temi a partire da quello che ha detto Conte, da questo oltraggio del contropiede, sai, la lite con Capello, no? L'Inter fa contropiede, no, contropiede non si può più dire, oggi c'è una bellissima pagina in Crosetti. E cosa dovremmo dire se non più contropiede? Ripartenza, è vero. Ripartenza va meglio, sì, e quindi cambia il lessico. Io credo ma non che cambia la sostanza. No, non cambia la sostanza, è tutto molto divertente. Questi, insomma, giocheremo un po' su questo, oltre che sullo sci, sulle suggestioni di mercato, sempre per quanto riguarda il calcio, e su tutto quello che gli ascoltatori vorranno dirci, 349-238-6666, WhatsApp vocali. Grazie Carlo, a dopo con Tutti Convocati. 13:45 minuti, torniamo tra poco con Giulia Crivelli, Giornali Internazionali.